Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte ottava. Ventisei mesi dopo. Dai fatti di Fossano sono trascorsi 26 mesi. Il processo è ancora in alto mare e non si sa quando sarà fissato. Ma questo non ha importanza. Infatti, come tanti detenuti ritenuti difficili, sono passato e sto passando attraverso un trattamento particolare, che è prassi normale nelle nostre carceri. Anche se non è contemplato dalle leggi, trasferimenti da un capo all'altro della penisola, angherie, ricatti morali, umiliazioni ed intimidazioni verso i familiari, mancanza d'assistenza sanitaria o finta assistenza per salvare la forma. Questi sono alcuni degli strumenti di cui si serve l'amministrazione penitenziaria per schiacciare coloro che sotto diverse forme la contestano. Non voglio atteggiarmi a vittima, perché non lo sono, in misura maggiore di chiunque vive nell'attuale società, esclusi naturalmente coloro che formano il vertice della piramide e i loro servitori. Voglio raccontare questa mia esperienza, che non sono eccezionali, in quanto migliaia di detenuti ne vivono di analoghe, per mostrare il vero volto di un'istituzione che oggi, con un concerto ben orchestrato, viene presentata all'opinione pubblica come troppo permissiva, lassista, disarmata, contro una delinquenza sempre più aggressiva ed arrogante. Questa istituzione debole, che abbatte freddamente dei giovani di 20 anni colpevoli d'essersi arrampicati sul tetto d'un carcere per reclamare condizioni d'assistenza più umane, che fucila detenuti che, persa ogni speranza verso una libertà legale, offrono la loro disperazione ai killer di Stato, e deporta i detenuti del nord a sud e quelli del sud a nord, con lo scopo non confessato di rendere loro più penosa la detenzione, allontanandoli dalle loro famiglie, che compie angherie, pestaggi, selezionati eppure indiscriminati, effettua ricatti morali e materiali d'ogni genere. Ma è anche vero che le nostre istituzioni sono lassiste e permissive. Lo sono nei confronti dei petrolieri, degli intrallazzatori d'alto bordo, dei bancarottieri internazionali, dei dissipatori di denaro pubblico, dei golpisti neri, dei militari nostalgici. Questa fauna non la si trova nelle carceri, e se, a volte, non si può proprio fare a meno di fingere d'arrestarli, c'è sempre pronta per loro una clinica di lusso o un ospedale militare in attesa di un'immancabile libertà provvisoria che anticipa l'insabbiamento dell'istruttoria. In ospedale, però, sono stato una volta anch'io, 7 giorni dopo i fatti di Fossano, un giorno per ogni pallottola ricevuta. Le procure generali non riposano il 7° giorno, quindi fu ordinato il mio trasferimento dall'ospedale civile di Fossano al centro clinico delle Nuove di Torino. Fu la prima di una lunga serie di incredibili disposizioni da parte di funzionari che non avrebbero minimamente sfigurato in un libro di Kafka. Attualmente mi trovo da 7 mesi nella casa penale di Lecco e da 7 mesi sono rinchiuso in una cella di isolamento. Nel modo più obiettivo e distaccato possibile voglio rendere una testimonianza di questi ultimi 26 mesi. Del breve periodo trascorso all'ospedale civile di Fossano serbo un buon ricordo. Questo può sorprendere, perché logicamente quel periodo dovrebbe identificarsi con le mie sofferenze da allora. Ma non è così. Il dolore fisico l'ho dimenticato da tempo, ma non ho dimenticato la gentilezza, l'umanità, il carone umano che mi fu dato dalle giovani infermiere, da una suora e dal primario, professor Impallomena. Per chi vive in libertà, la gentilezza di un medico o di un'infermiera viene accettata come un fatto normale, ma per chi ha vissuto e vive da lungo tempo in carcere, la gentilezza di uno sconosciuto lascia il segno. Dei fatti successi subito dopo il ferimento ho ricordi frammentari, perché a momenti di lucidità seguivano frequenti momenti di perdita di conoscenza. Sull'ambulanza c'era Don Felice, cappellano del carcere di Fossano. Mi chiese se ne riconoscevo la voce e dalla mia risposta affermativa mi disse che io avevo sbagliato solo due volte nella mia esistenza e che lui mi dava l'assoluzione. Seppi poi che sull'ambulanza mi dette l'olio santo, ma non ho mai saputo quali erano i due miei sbagli che avevano catturato la sua attenzione. Del mio arrivo all'ospedale ricordo una grande confusione, grida, ordini, lampi di macchine fotografiche. Non so perché, ma per lungo tempo ho tenuto gli occhi chiusi, anche se ero sveglio. Forse fu dovuto allo shock della pallottola che mi aveva colpito all'altezza della tempia destra. Fatto sta che, anche desiderandolo, non mi riusciva ad aprire gli occhi. Ricordo che fui manipolato, spostato, mi furono poste domande su ciò che sentivo, quali erano le zone del corpo dove sentivo maggiormente dolore. Sentii una voce che disse: prima che muoia, gli chieda il nome di chi gli ha fornito la pistola. Me lo chiesero, ma ero ancora sufficientemente in me per rispondere che se la cercassero da soli. Persi conoscenza. Dopo qualche tempo, minuti, ore, rinvenni, perché sentivo un gran dolore al petto. Con un ferro mi stavano frugando tra le costole, sotto il seno sinistro, per estrarre una pallottola. Il dolore era veramente insopportabile. Sempre con gli occhi chiusi, mossi il braccio destro con l'intenzione di fermare la mano del medico, ma questo movimento mi causò un dolore ancora maggiore. Il polso destro era stato rotto da una pallottola e l'avambraccio era stato fratturato in più punti con i calci dei fucili. Allora usai la mano sinistra e riuscii a trovare ed a stringere il polso del medico. Gli dissi che certe cose non si devono fare, che anche se ero delinquente bisognava fare uso di un anestetico. Mi rispose che per lui io non ero un delinquente, ma un essere umano da salvare, che le mie condizioni non permettevano l'uso d'anestetico. Mi chiese di collaborare, di stringere i denti per facilitargli il compito. Sentii un senso di gratitudine e un'istintiva fiducia verso quella voce sconosciuta. Smisi di muovermi e di lamentarmi e dopo un po' sentii il rumore metallico di qualcosa cadere in una bacinella. Una voce di donna mi disse di pensare a Gesù Bambino perché lui ama tutti gli uomini. Quando io gli risposi che non credevo a Gesù Bambino, lei mi disse di pensare allora ai miei familiari. Forse ho sentito o detto altre cose, ma questo è tutto ciò che ricordo di quella sera. Quando mi svegliai non realizzai subito la situazione. Mi trovavo in una stanzetta sconosciuta. Una ragazza bionda era accanto al mio letto e mi stava asciugando il sudore della fronte. Quando mi vide aprire gli occhi, s'alzò in piedi imbarazzata, forse impaurita. Mi chiese se avevo sete. Al mio cenno affermativo prese un bicchiere d'acqua e con un cucchiaio mi bagnò le labbra. Le dissi che avevo realmente molta sete e che volevo bere dal bicchiere, ma lei disse di no, non si poteva, perché ero stato operato. Alla mia gioia per questa notizia sorrise, mi disse di stare buono e di non muovermi sino al suo ritorno. Quando aprì la porta per andarsene vidi due carabinieri armati di mitra. Notai la loro preoccupazione nel vedermi sveglio. Uno entrò nella stanza e senza una parola si mise vicino alla finestra con il mitra, rivolto a terra. L'altro rimase sulla porta. Senza curarmi di loro, cominciai ad ispezionare il mio corpo. Il braccio destro era fasciato ed adagiato in una conchiglia di gesso. Dal naso mi usciva un tubetto di plastica, fermato con un cerotto sulla guancia. La tempia e l'orecchio destro erano incerottati. Sai il lenzuolo e vidi che ero nudo, il torace e lo stomaco ricoperto di garza. Dal pene usciva un tubicino di plastica che si perdeva sotto il letto. Nel polpaccio era conficcato un grosso ago collegato ad un contenitore dal quale scendeva goccia a goccia un liquido trasparente. Non sentivo nessun dolore. Era come se il mio corpo non m'appartenesse. L'unico disturbo era un fastidioso fischio e dei fruscii all'orecchio destro. Stavo riflettendo, cercando di collegare gli avvenimenti del giorno prima, quando l'infermiera fece ritorno seguita dai medici e altre infermiere. Un medico, vedendo il carabiniere armato di mitra vicino alla finestra, gli disse di uscire dalla stanza. Seppi poi che era il primario del reparto chirurgia, professore in Pallomena. Era giovane ed aveva un volto simpatico che ispirava fiducia. Mi visitò minuziosamente, poi mi chiese come mi sentivo. Alla mia risposta, che mi sembrava di stare bene, ma che desideravo sapere cosa mi era stato fatto, rispose con pazienza e larghezza di particolari. Ero stato colpito da 7 pallottole. Al petto, all'altezza dell'ombelico, al fianco destro, 2 volte alla schiena, alla testa e al polso sinistro. La ferita più pericolosa era stata quella al ventre, perché aveva causato una grave emorragia interna e perforato l'intestino in più punti. Mi era stata praticata una laparotomia mediana, era stata arrestata l'emorragia interna, tagliato un piccolo pezzo di intestino e tolto 3 pallottole. Avevo ancora una pallottola nel fegato, ma non aveva causato gravi danni. E si sperava che forse non sarebbe stato necessario toglierla. Un'altra in un punto chiamato cieco che non destava preoccupazioni. Quella alla testa si era spaccata in numerosi frammenti che si erano dispersi nella parte destra del volto, senza trapassare il palato. Il nucleo più grosso si era fermato all'altezza delle vertebre cervicali, senza causare danni. Anche la pallottola al polso si era frantumata e le schegge erano mescolate con frammenti d'osso. Ora, prima di prendere la decisione d'operarmi alla testa e al braccio, bisognava attendere che io recuperassi le forze e che mi rimettessi dalla prima operazione. Loro intanto avrebbero studiato le radiografie. Disse che ero stato incredibilmente fortunato. Sarebbero bastati pochi millimetri più a destra o a sinistra e per le mie ferite non ci sarebbero state più nulla da fare. Mi disse di stare tranquillo, di riposare, d'avere fiducia che mi avrebbero rimesso in sesto. Avevo difficoltà ad aprire la bocca e parlavo un po' stentatamente. Ne chiesi la ragione e mi fu detto che la mascella era fratturata. Comunque niente di grave. Trascorrevo la maggior parte del tempo dormendo. Ogni tanto mi svegliavo perché trafficavano con siringhe sul braccio o sulle gambe per farmi trasfusioni, punture o fleboclisi. Il secondo giorno venne un graduato dei carabinieri ad ispezionare la mia camera. Fece mettere un catenaccio alla finestra, fece togliere un armadio di ferro e il comodino che si trovava accanto al mio letto. Poi, soddisfatto di vedere la camera completamente spoglia, s'avvicinò al mio letto e mi chiese come stavo. Gli risposi che, malgrado la loro buona volontà, ero vivo. Mi disse che, dato che non ero morto, quella volta non sarei morto più. Era come se fossi stato vaccinato contro le pallottole. Vedendo che ridevo della sua spiritosaggine, aggiunse che lui non mi aveva sparato, si trovava all'esterno del carcere. Poi, forse per convincermi della sua umanità, mi disse che mia moglie e mio figlio si erano presentati in caserma il giorno prima per ottenere l'autorizzazione di vedermi. Fu lui stesso a telefonare alla procura, ma ottenne un rifiuto. Prima di vedere i parenti dovevo essere interrogato. Mia moglie si mise a piangere, poi s'arrabbiò, disse che era suo diritto vedermi, che forse stavo per morire, che i veri delinquenti erano loro, che avevano infiorito per uccidermi ad ogni costo. Il carabiniere disse che sarebbe stato suo dovere denunciarla per oltraggio, ma aveva lasciato perdere. Disse che più tardi avrei potuto vedere mia moglie e mio figlio per alcuni minuti. L'avrebbero accompagnata sulla soglia della stanza. Non dovevamo parlarci. Un gesto umanitario del procuratore. Più tardi fui svegliato da un'infermiera che mi disse che c'era mia moglie. Stupidamente voltai il viso verso la finestra perché non volevo che Anna mi vedesse in queste condizioni, con tubetti di plastica che muscivano da tutte le parti. Quando finalmente mi volsi per vederla, feci appena in tempo a vederla svenire. Fu sorretta dai carabinieri che la portarono via. Anna e Loris restarono 5 giorni a Fossano, mendicando continuamente mie notizie all'ospedale. Poi mio padre e l'avvocato l'accompagnarono a casa. L'avvocato portò con sé Loris in vacanza per distrarlo. Tenne per un mese mio figlio presso di sé. Prima di partire, l'avvocato ottenne per Anna, Loris e mio padre il permesso di visitarmi per alcuni minuti. Spero che non me ne voglia se tengo per me i pensieri più intimi, dolci e tristi, che hanno per oggetto i miei figli, la mia coraggiosa e sfortunata compagna, il mio vecchio padre che dopo una vita spesa a combattere contro i fascisti di ieri e di oggi si vede negata una vecchiaia serena per causa mia, perché sono tanto diverso da come lui avrebbe desiderato che fossi. Quando parlai da solo con l'avvocato, lui mi disse che il giudice istruttore voleva interrogarmi, ma i medici si erano opposti perché le mie condizioni sconsigliavano per il momento un interrogatorio. Dissi all'avvocato che preferivo essere interrogato subito, dato che lui era presente. Lo pregai di dire al professore Impallomena che mi sentivo in grado di subire l'interrogatorio. Fu uno sbaglio da parte mia. Dopo mezz'ora, giudice ed avvocato erano accanto al mio letto. Entrambi trascrivevano a mano le mie dichiarazioni. Diedi la mia versione sugli avvenimenti, rifiutandomi logicamente di dare particolari su come m'ero procurato le armi e i documenti falsi. La mia deposizione deluse ed irritò il giudice. Prima di andarsene, m'osservò attentamente e disse che secondo lui stavo già pensando alla prossima evasione. Stupidamente gli chiesi cosa avrebbe fatto lui se si fosse trovato in una situazione come la mia. Altrettanto stupidamente lui mi rispose che ciò era impossibile, dato che lui era un magistrato, non un rapinatore di banche. Dopo 2 giorni la procura ordinò il mio trasferimento al centro clinico delle Nuove di Torino. Avevo avuto una grave ricaduta. Broncopolmonite acuta, conseguente probabilmente alla ferita al torace. Per un'intera notte avevo delirato in preda ad una febbre altissima. Il mio improvviso trasferimento sorprese le infermiere. Al mattino mi era stato ingessato il braccio e tutte le infermiere vollero scrivere il loro nome sul gesso, chiedendomi di mandare loro delle cartoline, dandomi notizie. Fu la suora ad informarmi che in giornata sarei stato trasferito. Sembrava addolorata, volle offrirmi un po' di denaro per le mie prime spese in carcere. Rifiutai, ma le chiesi di scrivere un espresso a mia moglie, informandola del trasferimento. Il professore Impallomeni seguì di sua iniziativa l'ambulanza, che molto lentamente, per evitarmi scosse, mi trasportò a Torino. Giunti al carcere in Pallomena, chiese di parlare al medico di servizio per metterlo al corrente sulla terapia da seguire. Non c'era alcun medico presente, quindi parlò con un appuntato che svolge le funzioni di infermiere al centro clinico. Quando in Pallomena venne da me per acclimatarsi, mi trovavo su d'una barella del carcere. Ero in pigiama e in Pallomena si irritò dicendo di coprirmi perché avevo la broncopolmonite. Mi strinse la mano sana e mi disse con tristezza: «Fantazzini, mi dispiace, ma io per lei non posso più fare più nulla. Auguri!» Fui messo in una stanza con altri detenuti convalescenti. In casi del genere la curiosità è grande e tutti mi rivolsero domande, ma poi resisi conto che non stavo bene, smisero addirittura di parlare fra di loro per permettermi di riposare. La notte stetti male, avevo una febbre alta e i miei compagni di cella chiamarono l'infermiere. Dovettero insistere lungamente prima che l'infermiere, accompagnato da una guardia e da un brigadiere, si decidesse a farmi una puntura calmante. Il giorno dopo non fui visitato da alcun medico. I detenuti protestarono per questa mancanza di cure e per il fatto che non si provvedeva a nutrirmi tramite ipodermoclisi, dato che la mascella fratturata mi impediva di mangiare. Uno dei detenuti più attivi nella protesta fu tolto dalla camera e portato in sezione, probabilmente alla cella di punizione. Gli altri allora si misero a protestare ancora più energicamente, pretendendo la restituzione del loro compagno. La sera stessa fui messo in un'altra camera. I miei compagni erano tutti anziani, quindi più tranquilli. In quel periodo tutte le carceri erano in fermento. I detenuti erano esasperati dalle continue circolari ministeriali che promettevano una celere discussione d'approvazione dei nuovi codici e della riforma penitenziaria. Proprio in quei giorni, fatto mai succeduto prima, anche le donne nel carcere di Rebibbia erano salite sui tetti, associandosi alle proteste in atto nelle altre carceri. I giornali di destra speculavano schifosamente per screditare queste lotte. Sui loro giornali e sulle loro riviste avevano dato ampio risalto ai fatti di Fossano, con dispendio delle foto degli agenti da me feriti, presentando degli avvenimenti assolutamente individuali, che trassero la loro origine da motivazioni personali come facenti parte d'un unico disegno eversivo del quale sarebbe stata responsabile la sinistra extraparlamentare. L'anno successivo furono fatte speculazioni ancora più ignobili, sulle quali riferirò più avanti. A Torino, in quell'estate 73, i secondini erano particolarmente tesi per ragioni contingenti le nuove. Pochi giorni prima, 7 detenuti erano riusciti ad evadere, proprio dal centro clinico. Inoltre, un giovane agente di custodia era ricercato perché aveva fornito dei seghetti a detenuti e s'apprestava a fornire anche delle armi. In quel periodo dirigeva il carcere lo stesso funzionario che a Fossano, nella sua qualifica di ispettore per il Piemonte, aveva trattato con me le varie fasi di quell'episodio. Vi era più di una ragione, quindi, perché io non fossi particolarmente benvoluto a Torino. Anche il giorno dopo non si vide alcun medico e la sera un detenuto scrisse a mio nome una lettera di protesta al direttore. Il giorno dopo fui trasferito al centro clinico di Milano. Motivazione: il centro clinico di Torino non era sufficientemente attrezzato per curare un detenuto nelle mie condizioni. Giunsi a Milano in ambulanza. All'ufficio matricola non vollero accettarmi, ma i carabinieri mi scaricarono su una barella del carcere dicendo che la loro responsabilità terminava lì. Dalla barella seguii per oltre un'ora le varie discussioni, le telefonate, sino a quando quelli della matricola dovettero firmare i documenti dei carabinieri e prendermi in consegna. Il corpo del centro clinico fa sfoggio d'una bella entrata, marmi, targhe con nomi di donatori, statue, un bel giardino. Dopo l'ingresso però le cose cambiano, un po'. A sinistra c'è un corridoio scuro, con delle celle che non invogliavano ad entrarvi. Alla fine del corridoio c'è una porta di ferro, con sopra scritto COP, che significa Centro d'Osservazione Psichiatrica. Le celle del corridoio sono quindi una specie di astanteria del COP. Ci vengono messi detenuti che danno in escandescenze per essere calmati e poi passare in osservazione al di là del cancello. A destra la sala radiologica e fu lì che mi portarono. Con gravi difficoltà un appuntato radiologo mi fece delle radiografie alla testa, al braccio ingessato e al corpo. Poi mi portarono in una delle celle descritte prima. Alla mia sorpresa, un appuntato mi disse che era per disposizione del maresciallo, dato che ero pericoloso. Chiesi di essere subito visitato da un medico perché mi sentivo male e mi sentii rispondere: «E le guardie alle quali hai sparato, come stanno?» La cella era lurida, piccola e senza luce, naturale. C'era solo un letto murato al suolo, uno di questi letti che si usano in certe celle di punizione, duri perché al posto delle molle hanno delle strisce di ferro rigide. I muri erano umidi, scrostati e sporchi. La finestra era murata in alto, era stata lasciata una piccola feritoia coperta da una bocca di lupo. Dall'altra parte c'era il bel giardino che abbellisce l'entrata del centro clinico, ma i detenuti che hanno la sfortuna di entrare in quelle celle non possono vederne i fiori. Mi sembrò una cosa così assurda d'essere stato messo lì dentro nelle mie condizioni che non me ne preoccupavo troppo. Pensai che probabilmente ero stato parcheggiato lì in attesa che m'avessero preparato una camera ai piani superiori. Al centro clinico vero e proprio. Sarebbe stata una questione di ore, forse minuti. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che so è, ha ridotto già. Libri ribelli.